Italia, su 10, Lucchi, Lucchi, 84, su 10, cambio. Senti, esci forte. Vai. Come mi copi, collega? Oh, collega, come mi copi? Ok, dai, se mi stanno già portando una merce per il carico, dai, lo proviamo un altro giorno, dai. Aspetta un secondo, dammelo, poi mi arriva la rotatoria. Però adesso sono qua da cammini e va bene. E io ti sto già perdendo, hai capito? Mi sto già perdendo. Dai, non ti sento più, ci sentiamo, dai, per il momento grazie, ciao. Hola, isole Canarie, hola.